sense of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Fox News alert, the president's controversial green czar, Van Jones, has resigned. Caroline Shively live in Washington this morning. Buongiorno America, vediamo quali notizie stanno ascoltando dagli schermi delle loro televisioni mentre fanno colazione gli americani. La prima viene da Fox News, a toni trionfanti, perché è stata una crociata condotta dall'anchorman Glenn Beck, quella in favore della cacciata di Van Jones, uno dei cosiddetti czar nominati dall'amministrazione Obama, lo zar, il guru dell'ambiente, che se n'è dovuto andare dopo che si sono approfondite indagini riguardo al suo passato. Sono le parole di Van Jones stesso a dire: non posso chiedere ai colleghi dell'amministrazione di sprecare tempo e energie preziose a difendere il mio passato. In sostanza sono saltate fuori questioni di estremismo riguardo ai suoi trascorsi politici, critiche nei confronti dell'amministrazione Bush riguardo agli eventi dell'11 settembre, addirittura delle illazioni relative alla possibilità di un coinvolgimento dell'amministrazione repubblicana in quel tragico evento, e poi degli altri trascorsi da quasi terrorista come militante di una organizzazione estremistica che si chiama Standing Together to Organize a Revolutionary Movement, iniziali che tutti insieme vanno per Storm, Tempesta, una organizzazione di impegno politico ambientalista su posizioni estremamente trasgressive. Perde un pezzo l'amministrazione Obama mentre si imbocca probabilmente il periodo più impegnativo della sua corsa. Let's go overseas now to a place with a long history of bloody conflict. Last month 51 American service members were killed. E questa invece viene da ABC News ed è una notizia che sta esplodendo, sta crescendo sugli schermi americani relativi allo scenario afghano, mentre sono tutt'altro che sopite le polemiche per il bombardamento messo in atto dal contingente tedesco in Afghanistan, che ha causato un numero imprecisato di vittime, c'è chi parla di 50, chi di 100. Qui invece si parla di esercito americano, perché un'organizzazione benefica svedese accusa l'esercito statunitense di aver saccheggiato un ospedale afghano, provocando danni, ostacolando il lavoro del personale. Il comitato svedese per l'Afghanistan accusa la decima divisione dell'esercito americano di aver fatto irruzione nell'ospedale, un ospedale situato nella provincia di Vardak, senza alcuna autorizzazione. Anders Fang, che è il direttore di questa organizzazione, afferma che i soldati avrebbero sfondato a calci le porte, immobilizzato dipendenti e parenti di pazienti, e che l'operazione militare avrebbe infranto a suo parere l'inviolabilità delle strutture ospedaliere nelle zone di combattimento. E anche nel caso dell'Afghanistan, come dire, sta piovendo sul bagnato. A first in the waters off Cape Cod. Good evening and thanks for joining us. I'm Ken McLeod. Not one, but two. E questa è una notizia che agli americani potrà provocare preoccupazione, spavento, ma sicuramente anche un filo di divertimento, perché hanno di nuovo avvistato, come sta informando in questi minuti CBS News, hanno di nuovo avvistato gli squali al largo di Cape Cod, squali bianchi, più grossi, più pericolosi. C'è un eccitato biologo che si chiama Greg Scomal che dice: ho appena vissuto il giorno più incredibile della mia vita nel weekend del lavoro, gli americani a godersi l'ultimo sole sulle spiagge, in particolare sulle spiagge di Cape Cod del Massachusetts e di quella Martha's Vineyard dove era ambientato in un certo film. Si sono alzati gli elicotteri e per 6 ore hanno avvistato un gruppo di squali bianchi. Naturalmente ogni servizio televisivo che sta andando in onda alla fine è condito esattamente da queste note. It is as if God created the devil and gave him jaws. Knock this shit off. Allora, questo si chiama Buongiorno America e io dico innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24, benvenuti, bentornati all'ascolto di uno spazio che si occupa di America e di mondo e di rifrazione, di rapporti, di risonanze, di relazioni del mondo con l'America, con Washington, ma anche con l'altra America, un'America culturale, un'America dei sogni, della società, delle scoperte e dei segnali che vengono ripetuti, ribattuti da tutti gli angoli del pianeta. Ricordate, tre stagioni di Jefferson ora si sono modificate, evolute in questo spazio nel quale troveranno come sempre eco anche le notizie in arrivo dall'altra parte, da quello che noi abbiamo un po' da sempre giudicato il secondo polo o l'altra corrispondenza o l'interlocutore privilegiato dell'universo americano in questo inizio del XXI secolo, ovvero la Cina e il lontano Oriente. Parliamo di America, parleremo soprattutto di quello che gli americani conoscono, la comunicazione, l'informazione della quale vengono a conoscenza quando cominciano la loro giornata, che poi è una giornata destinata a segnare, a condizionare, a influenzare il resto del mondo. Quindi le televisioni, i notiziari, naturalmente le produzioni del mondo dello spettacolo e della cultura e anche naturalmente i giornali, le prime pagine, le firme più importanti e poi di tanto in tanto anche qualche riflessione. Oggi partiamo con un ragionamento che riguarda naturalmente il protagonista per antonomasia. As we spend time with family and friends this Labor Day weekend. Questo è il discorso pronunciato nel weekend da Barack Obama, presidente degli Stati Uniti numero 44 e adesso con un indice di gradimento che sorprendentemente assomiglia per l'appunto a quel numero, a quel 44 per un signore che viene da ben altri cieli, no, di gradimento, intorno al 70% aveva cominciato la sua presidenza, è segno che qualcosa sta cambiando nel discorso radiofonico e via internet di ieri. I segnali lanciati da Obama all'America, l'America a cui sta tornando, che sta tornando a servire dopo aver concluso la sua vacanza sempre a Martha's Vineyard, la famosa isola di Jaws, dello squalo, no? Quella che abbiamo già citato poco fa, l'isola peraltro prediletta anche da Ted Kennedy, il grande americano che se n'è andato durante questa estate. Insomma, in quell'angolo di New England si continuano a fare molti dei giochi che contano in America. Comunque, nel discorso di ieri Obama ha provato a improntare un approccio positivo, propositivo e soprattutto progressivo nei confronti degli americani, nel senso di un miglioramento che non può essere miracolistico, no, improvviso, ma che deve passare attraverso una lenta risalita. Ha detto ieri: abbiamo ricevuto dei rapporti che mostrano che la perdita di posti di lavoro sta drammaticamente rallentando rispetto a mesi fa. Abbiamo saputo che il settore manufatturiero ha piazzato finalmente i suoi primi guadagni dopo 18 mesi. Insomma, prova a impostare, a governare quello che sarà il suo atteggiamento nel corso di queste settimane, che naturalmente sono essenzialmente incentrate sulla grande battaglia della riforma sanitaria, della quale giorno per giorno vi diremo i passaggi, gli esiti e le risultanze. In questo momento l'atteggiamento della stampa non è positivo nei confronti di Obama, sono cambiati anche i toni di molte voci, ne cito solo un paio. Quella di David Brooks, grande editorialista del New York Times, ha scritto un editoriale intitolato La valanga Obama, una valanga che va verso valle, va verso il basso, perché sostiene Brooks l'ansia ormai sta invadendo gli americani, il paese si sta convincendo che il presidente non la sta guidando nella direzione giusta, c'è il sospetto che l'imposizione di un governo centralizzato a più riprese sostenuta da Barack Obama vada contro la volontà della maggioranza degli americani, ma anche questi sono argomenti che naturalmente giorno per giorno approfondiremo. Citiamo soltanto un altro articolo assai interessante uscito oggi sul Daily Telegraph, che registra la reazione di una serie di grandi economisti guidati da James Buchanan, un premio Nobel dell'economia, e con lui Charles Rowley della George Mason University e Nathaniel Smith del Locke Institute. Institute dicono che se Obama continua a impostare una statalizzazione d'America dietro l'angolo per gli Stati Uniti, ci potrebbe essere un futuro addirittura con i colori della Argentina, della grande crisi sudamericana. Quindi sono cambiate profondamente le atmosfere che circondano la presidenza di Barack Obama. Questa settimana c'è un grande discorso di Barack Obama di fronte alle Camere Riunite. Vi ricordo peraltro che questo che si apre ora è un anno elettorale. Fra un anno e tre mesi si vota per il medio termine in America, si rifanno Senato e Camera, almeno in parte, e quindi si comincia a lavorare anche in termini politici elettorali. Ci sarà anche un secondo discorso agli studenti, al mondo della scuola, un discorso già molto controverso che Obama intende pronunciare non appena tornato a pieno ritmo nella sua presidenza, e questi naturalmente sono i nostri argomenti portanti sulla presidenza. Express yourself. E vediamo le pagine dei giornali che invece gli americani stanno cominciando ad acquistare in edicola, si trovano sul prato, no? Perché c'è il Paperboy, il ragazzino con la bicicletta che lo lancia, lo distribuisce i quotidiani nei grandi suburbia americani. Il New York Times apre con una notizia di politica internazionale con una firma molto autorevole, il titolo è dei falsi realizzati nei seggi elettorali in Afghanistan stanno favorendo Karzai, e la firma è quella di Dexter Filkins, che è stato anche ospite qui in trasmissione a Radio 24, a Jefferson, autore di un libro che si chiama Guerra per sempre, pubblicato da Bruno Mondadori, uno dei grandi inviati internazionali degli scenari di crisi del New York Times. Filkins in questo articolo tra l'altro rivela l'esistenza di veri e propri seggi virtuali in Afghanistan, sarebbero addirittura 800 dei seggi che semplicemente non esistono, che scaricano dei voti che non sono mai stati fatti, non sono stati mai stati espressi dalla popolazione, dall'elettorato afghano, e vanno a ingrossare il numero di voti che per l'appunto starebbero portando Hamid Karzai ormai a un passo, il 48,6 della vittoria già al primo turno, nonostante appunto le denunce di brogli siano crescenti, vadano avanti in questo interminabile spoglio che, come vi ricordo, ha avuto inizio addirittura il 20 agosto scorso. Sempre stiamo al New York Times, però arriviamo alle pagine della tecnologia per leggere qualcosa di assai particolare, credo molto caro a tanti tra voi. Dopodomani, il giorno fatidico della uscita, della pubblicazione di questo videogioco, che non è un videogioco come tutti gli altri, se si mobilita appunto il New York Times con un grande articolo a firma di Seth Skysel per parlarne, per presentarlo, usando paroloni tipo risonanza culturale intergenerazionale, dedicato a questo articolo, a questo gioco, a questo videogioco che si chiama The Beatles Rock Band. Rock Band è una serie di videogiochi concorrenziale a un'altra serie che si chiama Guitar Hero, e che consiste alla fin fine nell'interpretare in modo facilitato e competitivo le più famose canzoni del rock e del pop. Il fatto è che adesso sono stati tirati in ballo i santi, ovvero i Beatles. C'è una collaborazione della Apple, la grande casa californiana di computer, nella operazione, coinvolta in questa vicenda. Tra l'altro sta pubblicando il catalogo Beatles su iTunes, quindi c'è una grande grande joint venture fra Apple e Beatles, Beatles intesi come marchio. Il gioco è molto divertente, i trailer che sono presentati dal New York Times sono estremamente coinvolgenti, ci sono alla fin fine dei cartoni animati dei Beatles dei quali che si possono osservare o nei quali ci si può impersonare nel tentativo di eseguire nel modo più corretto possibile poi i grandi successi, 45 grandi canzoni missate, niente meno, tanto per fare un po' di name dropping, dal produttore Giles Martin, che altro non sarebbe che il figlio dello storico produttore del quartetto di Liverpool. Il 9 settembre in tutto il mondo la sensazione è che i Beatles torneranno in testa alle classifiche. E vi do un'ultima notizia che invece è nelle pagine di cronache rosa, nere, gialle, insomma quelle un po' più gossip dei giornali americani, è presente ovunque perché il personaggio, come dire, merita attenzione o forse profonda disattenzione, ma del resto lo conosciamo bene anche noi in Italia. Si chiama Tila Tequila, è una ventottenne modella, cantante statunitense di origine franco-vietnamite. Noi in Italia vediamo il suo programma su MTV, si chiama Shot at Love with Tila Tequila, una sorsata d'amore con Tila Tequila, in pratica un reality show per scegliersi il attraverso il quale Tila prova a scegliersi il fidanzato attraverso una serie di situazioni piuttosto paradossali. La notizia però non è tanto risibile perché Tila, che sarebbe nota di, come, con orientamento sessuale con orientamento omosessuale, invece si viene a scoprire ha un fidanzato, non un fidanzato normale, bensì un linebacker dei San Diego Chargers, ovvero un giocatore di football americano, in sostanza una montagna umana con tanto di taglio di capelli alla moicana, che ieri sera è stato protagonista di un episodio di grave violenza nei confronti di Tila. In sostanza ha cercato di strozzarla, essendo Tila poi una ragazza assai piccolina, assai minuta. La notizia, come dire, prende anche dei caratteri particolarmente orribili, no? Particolarmente virulenti. Lui si chiama Shawnee Merriman, sostiene di aver usato violenza nei confronti di Tila solo per impedirle di uscire di casa e mettersi alla guida completamente ubriaca. E questo è il gossip di giornata per gli americani, che si stanno svegliando e ne rideranno entrando in ufficio. Ma c'è un altro mondo invece che adesso sta tornando a casa per cenare. Buonanotte Cina. E oggi andiamo un po' di corsa perché naturalmente è un programma che prende il volo a partire da oggi, ma le notizie sulla Cina saranno sempre presenti a fare da pandan a quelle americane. Si conclude una giornata invece in Cina, una giornata che è stata contraddistinta dalle crescenti notizie relative ai disordini in Xinjiang. Ce ne siamo occupati tante volte nel corso anche di Jefferson, e la situazione non migliora in questa regione lontana dai grandi centri di potere della Cina, tant'è vero che è stato cacciato il capo della polizia dello Xinjiang, è stato cacciato il capo del Partito Comunista di Urumqi, la capitale di questa regione cinese nord-occidentale con la quale spesso appunto abbiamo fatto i conti, teatro di scontri in particolare tra cinesi di etnia Han e musulmani uiguri. Per tre giorni, da mercoledì a venerdì, migliaia di cinesi di etnia Han hanno inscenato manifestazioni violente accusando le autorità locali di non fare abbastanza per proteggerli dagli attacchi dei musulmani, che sono in quella regione l'etnia prevalente. Soprattutto la notizia, come dire, assume un carattere particolarmente sinistro per il nuovo, per la nuova modalità di protesta che gli uiguri starebbero utilizzando in queste ultime settimane nello scenario dello Xinjiang. Sarebbero infatti addirittura 531, secondo l'agenzia Nuova Cina, le persone ricoverate, 106 delle quali presentano segni evidenti di colpi di siringa. In pratica la protesta passerebbe attraverso attacchi utilizzando siringhe infettate da cosa, non si è ancora capito, non si è avuta ancora notizia di eventuali infezioni provocate da questi attacchi. attacchi. Testimoni comunque riferiscono che una folla si è radunata di nuovo nei pressi degli uffici del governo locale ed è stata dispersa dalla polizia. Sono stati usati gas lacrimogeni. Il governo centrale cinese non ha ancora evidentemente elaborato la strategia corretta per riportare la calma in questo angolo della Cina, un angolo della Cina che ha creato anche di recente numerosi imbarazzi anche sul piano internazionale al potere di Wen Jiabao. Seguiremo naturalmente anche questo scenario. Buonanotte Cina corrisponde però, come vi dicevo, alla coda di un programma che si chiama Buongiorno America. Io sono Stefano Pistolini, lo ascolterete sempre intorno alle 13.30 qui da Radio 24. Ringrazio Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti da Roma e Filippo Reggi a Milano per la parte tecnica, Antonella Migliaccio in redazione. Appuntamento e poi approfondimenti, indirizzi, insomma lo srotolarsi di tutta la ragione, no? Di tutta la base, le fondamenta di un programma nei prossimi giorni. Continuate a seguire Radio 24.